Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Si può cuocere alla brace con la carbonella. Oppure con il forno microonde, quello con l'aria calda. La cottura al vapore, tradizione cinese ideale per le verdure. Ma adesso arriva anche la cottura in lavapiatti. Benvenuto professor Davide Cassi. Salve a tutti, è un piacere rivedervi, risentirvi anche. Eh sì, è una vecchia conoscenza di Radio 24. Lei è direttore del laboratorio di fisica gastronomica dell'Università di Parma e oggi è qui con noi per parlarci di questa modalità innovativa di cucina. Utilizziamo finalmente un elettrodomestico che fino ad ora non era mai stato utilizzato per cucinare, la lavapiatti. E noi siamo un po' perplessi, però... Ma no, vi renderò entusiasti a breve. Si tratta di uno di quelli che io chiamo hackeraggi. Ecco. Sapete cos'è un hacker? Un hacker, nella definizione propria più pura del termine in inglese, è qualcuno che utilizza uno strumento consueto in un modo innovativo. Mm-hmm. Uno che sfrutta le falle di un programma per fare qualcosa di nuovo, che ne so, vanno a mettere dei dati segreti nelle memorie delle stampanti. E in realtà ci siamo resi conto, io da alcuni amici con cui abbiamo costruito tanti anni fa questa cucina molecolare, che noi facciamo gli hacker in cucina. Cioè prendevamo degli strumenti che servivano ad altro e li usavamo in qualche modo curioso. Bene, la cottura in lavastoviglie è uno di questi esempi meravigliosi. E noi siamo qui per darle voce, professore. Allora, c'è una tecnica che è stata sviluppata dai francesi negli anni 70, che adesso va sotto il nome di cottura sottovuoto. La cottura in lavastoviglie è un hackeraggio che deve riprodurre la cottura sottovuoto. Di che cosa si tratta? Allora, chiariamo subito che il sottovuoto è il metodo di confezionamento dell'alimento. Infila l'alimento da cuocere in una busta e si toglie l'aria. In realtà non c'è manco bisogno di fare un vuoto spinto. L'aria si può togliere con tanti piccoli trucchi. Adesso ve ne insegno uno perfettamente casalingo. Prendete una busta di plastica che va bene per le cotture, la trovate in tanti negozi di materiale da cucina. Mettete l'alimento al suo interno e poi immergete dall'alto delicatamente questa busta in un recipiente pieno d'acqua, ovviamente senza introdurre il bordo superiore. Allora l'acqua cosa fa? Schiaccia fuori l'aria. È vero. Quando siete arrivati a comprimerla tutta, prendete uno di quei saldatori da pochi euro che vendono sempre nei negozietti, saldate la busta, avete già un vuoto più che sufficiente per le nostre per la cottura. Dentro cosa ci mettiamo? Un pesce, ci mettiamo un delle pollo, verdurine. Delle verdurine. Allora, cos'è che cuoce bene sottovuoto? Cuociono bene perché il sottovuoto in realtà è una aspetto, noi togliamo l'aria in modo da evitare ossidazioni, da tenere bene il contatto col calore, eccetera. Ma il secondo passo della cottura sottovuoto è che queste buste vengono immerse in acqua a temperatura costante inferiore a 100 gradi. Che sarebbe la temperatura di un lavaggio in lavastoviglie. Esatto, adesso poi vediamo come trattare queste temperature. Allora, questi si chiamano bagni termostatici tecnicamente e in cucina sono entrati da pochi decenni. A cosa servono i bagni termostatici? A mantenere delle temperature tali da intenerire l'alimento senza disidratarlo, senza fargli prendere cattivi odori, cattivi sapori. Il problema è che quando io cuocio, porto l'acqua facilmente a ebollizione, ma a 100 gradi molti alimenti si distruggono. Si spappolano un po'. Esattamente, no? Perché le cellule scoppiano, ne succede di ogni. Per esempio la carne a 70 gradi diventa grigia, la carne rossa, se io sto sotto mantengo un bel colore rosato, addirittura rosso più intenso. Allora, cosa cuocio? Per esempio, è meraviglioso il pesce, la mia ricetta preferita sono dei polipetti o dei calamaretti cotti in busta in lavastoviglie. In lavastoviglie, certo. Cioè, lei prende questa busta, ci mette dentro i polipetti, ovviamente puliti, conditi in che modo? Allora, ci metto dentro un po' di sale, metto dentro qualche erba aromatica, per esempio io di solito metto aglio e prezzemolo, non metto l'olio, non metto l'olio perché il calore gli fa solo male, lo aggiungeremo alla fine. Alla fine. A crudo. Ecco, però Cassi, un lavaggio di lavapiatti può durare un 40 minuti, va bene per tutti gli alimenti quel 40 minuti? No, allora vi dico subito, adesso questa ricetta che va bene per il pesce, per questi pesci delicati, funziona più o meno così. Voi prendete il programma di lavastoviglie che lava a 65 gradi. Okay. In questo modo questo tempo di cottura è più che sufficiente. Il programma di lavastoviglie di solito funziona così, c'è un lavaggio, una parte di sciacquo e raffreddamento e un secondo lavaggio. Allora, se noi ci fermiamo alla fine del primo lavaggio, estraiamo il pesce cotto caldo. Se azioniamo il raffreddamento, abbiamo il pesce anche già raffreddato e pronto ad essere condito in insalata. Ditemi se non è meravigliosa questa cosa. Fantastico. Però Però. Domanda delle domande. Intanto, la lavapiatti deve essere carica o scarica? Ci devono essere i piatti dentro, sporchi? Io preferisco lavorare tutto nel pulito. Vi spiego anche perché. Questi sacchetti, da un punto di vista microscopico, sono un po' dei colabrodi. Non è garantito che non facciano entrare il detersivo, anzi. Quindi usatela solo come forno, anche perché se avete una cena da 50 persone, te la fate. Io ho cotto anche 20 kg di pesce in un solo lavaggio. Quindi, si può utilizzare come forno e i piatti, diciamo, li laviamo dopo. Anche perché a parte, evitiamo magari di mettere la pastiglia, ecco. Esatto, anche perché non sono sostanze tanto innocue quelle che si mettono nella lavastoviglie. Certo. Attimo che ci sia un buchino qualcosa. Però dal punto di vista energetico, diciamo, funziona se si fa una bella festona con 10-15 persone, cioè se uno cucina sempre con la lavapiatti c'è un certo dispendio. Guardate anche quanto consuma un forno e poi dopo lei dice che forse ci siamo anche da quel punto di vista. Vogliamo mettere quando davanti agli ospiti sforniamo, anzi lavapiattiamo il piatto. Un entusiasmo. No, ma dovete vedere gli ospiti quando assaggiano questo pesce morbido, tenerissimo e profumato, perché non prende l'odore cattivo di pesce troppo cotto. Bisogna dirglielo dopo, infatti. Bisogna dirglielo dopo, se glielo dite prima inorridiscono. Però la scena vale. Ecco, l'ultima dopo riportate, vi faccio vedere la mia cucina, questo è il mio forno ad acqua. L'ultima cosa che volevo chiederle è, si può pensare di mettere anche l'alimento dentro, non so, un barattolo o un tupperware fatto apposta per il forno, cioè senza proprio avere il vuoto, ecco. Allora, questo funziona se l'alimento è liquido, semiliquido o cremoso. Altrimenti, se non abbiamo il contatto dell'alimento con le pareti, il riscaldamento è molto disuniforme. La parte che tocca contro il vetro cuoce di più e quella che sta staccata cuoce di meno. Oppure potete cuocere in un liquido o in un brodo. Tipo, se questo pesce lo mettete dentro una sorta di brodino e tutto all'interno del vasetto, allora sì. Una cottura in umido si fa in vasetto. Una sorta di ramen giapponese lavapiattoso. Una cottura in umido alla lavastoviglie. Va bene, grazie professore come sempre per questi preziosi consigli. Proveremo. Ci sentiamo presto, ho questa impressione. Grazie. Volentieri. Buon lavoro. Alla prossima. Arrivederci. Però magari con la pastiglietta del detersivo può venire fuori quel piccantino, eh? Sì, e poi magari anche con una spruzzatina di fritto attaccato alla padella non sarebbe niente male. Abbiamo chiuso qui per oggi con Food Lab. Ciao a tutti.